baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Netto calo della produzione industriale registrato dall'Istat in settembre, meno 5,7% annualizzato, meno 2,1% mensile, il peggiore da 10 anni. Secondo ISAE, Centro Studi di Confindustria, la contrazione dell'attività è destinata a durare. Restano in positivo le entrate tributarie nei primi 9 mesi, più 2,3%, ma il gettito IRES cala del 5%, e con il prodotto interno lordo in calo dello 0,6% nel 2009, il debito torna a muoversi verso il 105%. Un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Il Sole 24 Ore in prima pagina fa una sintesi abbastanza cruda, ma come dire essenziale, della situazione: la gelata dell'industria e il debito che risale verso il 5%. In realtà il Sole dedica sostanzialmente ben 2 pagine a queste notizie: nuova caduta della produzione, netto calo a settembre per la produzione industriale, l'Istat ha infatti rivelato una flessione annua del 5,7% di indice corretto per i giorni lavorativi, 22 contro i 20 settembre 2007, una forte diminuzione rispetto allo scorso mese di agosto. E vediamo la produzione di pelli e calzature giù del 19,3%, ci sono una serie di settori, l'analisi di settori, abbiamo appunto le calzature sono il record negativo, meno 19,3%, poi l'elettronica meno 9,7%, carta meno 8,5%, stiamo parlando del settembre 2008, 8 settembre 2007, le variazioni. E ancora tessile meno 8,4%, alimentare meno 4,3%, mobili più 1,9%. Insomma, gli andamenti analizzati. L'altra grande questione che viene posta dal Sole 24 Ore stamane in 2 pagine sulla crisi globale, c'è Luigi Lazzi Gazzini che si occupa, mentre il servizio che vi ho citato prima era di Rossella Bocciarelli, e di Nicoletta Picchio che si occupa della meccanica che chiude l'anno in recessione. Il debito pubblico risale al 105%, vi dicevo, Luigi Lazzi Gazzini scrive, crisi finanziaria, recessione globale, un quadro inquietante, le nostre finanze pubbliche ne risentiranno, il disavanzo 2009 potrebbe, si tratta di una pura ipotesi data l'incertezza di molte variabili, avvicinarsi al fatidico 3%, il rapporto col PIL, senza forse superarlo ma fermandosi attorno al 2,7% rispetto al 2,1 previsto finora, e il debito ne soffrirà di più, dovrebbe salire almeno al 105% del PIL, era previsto nel 2009, in calo al 102,9% dal 103,7% di quest'anno. Insomma, anche da questo punto di vista le questioni sul debito pubblico sono preoccupanti. Questo il Sole 24 Ore, che ripeto vi fornisce anche tutti i dettagli settoriali. Il quotidiano diretto da Ferruccio De Bortoli apre con scioperi improvvisi, apre con, come quasi tutti i quotidiani italiani, sugli scioperi improvvisi di lavoratori all'Italia, di hostess e piloti, vola l'Italia nel caos. Vi è un Franco Locatelli che scrive: bisogna dire basta alla dittatura di minoranze. E poi invece su un altro argomento, quello, l'altro grande tema d'attualità delle riforme, cioè gli atenei, abbiamo Salvatore Settis che scrive: un sistema da svecchiare, l'incesto e tabù in quasi tutte le culture umane, ma anche forme più tenui di endogamia sono scoraggiate dalle società complesse. La Chiesa prevede la dispensa per il matrimonio fra parenti stretti, giustificata dall'angustia loci, la ristrettezza del villaggio. Nel villaggio non proprio globale dell'Università Italiana, scrive Salvatore Settis, il meccanismo concorsuale ha somministrato la dispensa a urbi e torbi, incoraggiando l'endogamia e rendendo obbligatorio il successo del candidato locale. Questo Salvatore Settis, vi voglio ricordare che proprio Salvatore Settis, il direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, sarà ospite nella trasmissione condotta dal direttore Gianfranco Fabi, Dietro la Notizia, stamane alle 8:30. Ecco, Il Sole 24 Ore poi ricorda la crisi della General Motors che frena le borse, e mentre American International Group salva con 150 miliardi. Se fosse esplosa infatti quella società americana sarebbero stati davvero, davvero molti guai. Ecco, questo il Sole 24 Ore. Io volevo adesso però, come voi immaginate, occuparmi di All'Italia è sciopero selvaggio, questi sono un po' tutti i titoli, e da questo punto di vista prendiamo, se volete, il quotidiano più duro nei confronti dei piloti, ed è proprio il quotidiano Libero, ed è Vittorio Feltri che scrive l'editoriale. È ora di licenziarli. Inutile continuare a trattare, cercare di mantenere il posto a gente che in questi anni ha giocato allo sfascio e ora tenta di ricattare il governo. Berlusconi ci ascolti, li molli subito. Se questi sono i risultati, sarebbe stato meglio prendere l'ultima fornitura di carburante, cospargerla all'Italia e darle fuoco anziché tentare di salvarla da un fallimento comunque solo rinviato. Infatti il personale, tanto per non smentirsi e rimanere nella tradizione, pur non avendo ancora cominciato a lavorare per la nuova società, la CAI, è già in sciopero, il primo di una serie destinata a concludersi con una con un patatrac aziendale. Ecco, qui Vittorio Feltri ipotizza l'idea, insomma, che forse era meglio che fallisse. La storia della compagnia italiana, nella forma e congolese nella sostanza, è paradigmatica del costume nazionale in campo imprenditoriale. Lungi da me l'idea di ricostruire in ogni fase, sarebbe troppo rischioso per le coronali dei lettori. È sufficiente ricordare che 15 anni fa Alitalia era in stato comatoso e invece migliorare è peggiorata. Bisognava portare i libri in tribunale e farla subito finita, imitando il comportamento di molti altri paesi europei, i quali chiusero le aziende decotte e le riaprirono solo dopo aver fatto piazza pulita delle scorie. Questo scrive Vittorio Feltri sul quotidiano Libero. Cos'è il blues? Si chiede lo scrittore afroamericano Ralph Ellison. Il blues è quello che i neri hanno al posto della libertà. Dopo aver saputo della morte di Miriam Makeba, scrive Roberto Saviano, autore di Gomorra, sul quotidiano La Repubblica, mi è subito venuta in mente questa frase. Mamma Africa è stato ciò che per molti anni i sudafricani hanno avuto al posto della libertà. È stata la loro voce. Nel 1963 ha portato la propria testimonianza al Comitato contro l'Apartheid delle Nazioni Unite. Come risposta, il governo sudafricano ha messo al bando i suoi dischi e ha condannato Miriam all'esilio. 30 anni d'esilio. Sì, così scrive Roberto Saviano, ricordando la morte di Miriam Makeba, morta nella mia Africa. Anche perché Miriam Makeba nell'ultimo concerto aveva fatto proprio un omaggio era intervenuto in questo concerto contro le mafie, contro la camorra, e anche in difesa di Roberto Saviano, del quale voleva leggere il libro. Scrive ancora Saviano: da quel momento la sua biografia, cioè da quando è andata in esilio, si è fatta testimonianza di un impegno politico e sociale, una vita itinerante come la sua musica vietata. Nelle perquisizioni ai militanti del partito di Nelson Mandela vengono sequestrati i suoi dischi, considerati prova della loro attività sovversiva. Bastava possedere la sua voce per essere fermati dalla polizia bianca sudafricana, ma la potenza delle sue note le conferisce cittadinanza universale, fa divenire Sudafrica terra di tutti e soprattutto l'inferno dell'apartheid, un inferno che riguarda tutti. Negli anni 60, approdata negli Stati Uniti, Miriam Makeba si innamora di Stokely Carmichael, leader delle Pantere Nere, e i discografici in America le cancellano i contratti, perché Mama Africa non combatte con i mezzi della militanza politica, ma con la voce, e questo fa paura. Sì, è un po', insomma, lui, credo che Roberto Saviano riveda un po' la sua voce, diciamo, che ha fatto tanto clamore nella battaglia contro la camorra. Ora, anche se in una dimensione non musicale più limitata al territorio nazionale, ma comunque c'è questa testimonianza di Saviano. Ora, La Repubblica riporta anche un'inchiesta, a mio parere molto interessante, a firma di Ettore Livini, Il paese da sbloccare. Nell'era di Barack Obama, in un mondo dove gli equilibri geopolitici di 10 anni fa sono già materia per storici, l'Italia si conferma l'angolo d'Europa più allergico al ricambio della propria classe dirigente. Abbiamo l'Oscar per i leader politici più vecchi, 49,6%, a più di 71 anni, contro una media del 30% per il resto del continente. Le poltrone che contano nel campo dell'arte e della cultura sono occupate da un'elite con i capelli bianchi, età media vicino ai 70 anni. Tutti mondi dove le donne, tra l'altro, rimangono una minoranza da WWF. L'anagrafe certo non è l'unica unità di misura per calcolare la qualità di un establishment. Il capitale sociale di esperienza accumulato negli anni è un bene prezioso, ammette Nadio Delai, sociologo, presidente di Ermeneia e coordinatore del rapporto LUIS 2008, generale classe dirigente. L'Italia però ha una cronica tendenza ad abusarne. Il 45,2% dei cosiddetti leader storici e leader tricolori, i numeri uno di politica, economica, professione e istituzione, è ultra settantenne, contro il 31% della Gran Bretagna e il 28% della Spagna. Un tappo generazionale, scrive ancora Ettore Livini, una gerontocrazia autoreferenziale che non piace al paese. Il 73% degli italiani, dice la LUIS, la ritiene irresponsabile, il 68% incompetente, il 79% poco innovativa e che fatica ad assumersi responsabilità reali. Ecco, questo vi dicevo, un'inchiesta pubblicata dal quotidiano La Repubblica su come rinnovare la classe dirigente in un paese immobile. Ma a proposito di classe dirigente, di politica, voglio invece andare al caso le elezioni provinciali, al caso di Trento. Partito Democratico e UDC, alleanza vincente a Trento, scrive La Stampa, confermato il presidente dell'AI, Veltroni, il clima è cambiato, Parigi calma, il Trentino non è l'Ohio. E ci sono, La Stampa dedica ben due pagine al caso e anche un retroscena di Amedeo La Mattina. Dice il PD si conferma a Trento, suona l'allarme per il PDL, e il bello è che non se l'aspettava nemmeno lui, un risultato che va al di là delle mie previsioni, dice Lorenzo Dell'Ai, questo Trentino dalle spalle curve e larghe che governa da quasi 20 anni e non ne ha ancora compiuti 50. Proprio non se l'aspettava, manco Sergio Divina, il senatore leghista che perfino l'ultimissimo sondaggio dava quasi per favorito pochi voti e ce l'avrebbe fatta. Alzi la mano, chi l'aveva previsto? Nessuno. E i dati, come voi sapete, sono che Lorenzo Dell'Ai nella battaglia trentina ha vinto con il 56,99% contro Sergio Divina del centrodestra col 36,5%. C'è anche un retroscena di Amedeo La Mattina, vi dicevo, il senatore alza il prezzo col cavaliere, Lega cannibale, il risultato delle provinciali di Trento ha fatto scattare l'allarme rosso nel PDL, che si è arenato al 12,2% contro il 17,4% di Forza Italia più AN nel 2003. Il Carroccio invece ha fatto un balzo passando dal 6% al 14%, senza contare che la lista civica del candidato presidente Divina, leghista, ha fatto il 4,3%, totale 18,3%, insomma davvero un boom clamoroso anche in quella regione della Lega, che non è riuscita a, come dire, a stravincere, quindi lasciando il PD, ma insomma, però, dice La Mattina, è un segnale, in questo retroscena è un segnale negativo per il cavaliere. E c'è anche un'intervista a Bruno Tabacci, esponente dell'UDC, che dice ora via al progetto White e Casini può fare il leader. Bruno Tabacci, un centrista in transizione, gente che non ha mai fatto sconti neppure ai suoi amici, per la prima volta racconta in chiaro il progetto di una nuova alleanza alla quale stanno lavorando nell'ombra in molti. Il modello trentino parla molto chiaro: il centro-sinistra vince non per il 20% del PD, ma perché lì c'è un centro forte guidato da un leader moderato come Lorenzo Dell'Ai. Insomma, questa vittoria trentina, secondo l'UDC, secondo Tabacci, può essere esportata a livello nazionale. Ora la Stampa riporta anche la notizia, come tutti i quotidiani, anche GR, l'avete sentito, rapite dai somari due suore di Cuneo, obiettivo del Blitz, un ONG USA. Il quotidiano, il giornale, dedica l'editoriale, ed è proprio il direttore che dedica l'editoriale a questa cosa. Questo fatto drammatico, anche loro, forse soprattutto loro, scrive Mario Giordano sul giornale, sono un pezzo di quell'Italia forte e buona che nessuno mai racconta, a meno che sia sfiorata all'improvviso dalla tragedia. Erano in Kenya da 35 anni e curavano i bambini, disabili e epilettici nella fraternità di El Wak. Ogni mattina dal 73, l'anno in cui finiva la guerra nel Vietnam, e Novella Calligaris diventava campionessa del mondo di nuoto, regolarmente si alzavano, pregavano, scendevano in ambulatorio e cominciavano a cucire le ferite che per qualche mistero della fede lacerano in modo così profondo i piccoli e i deboli della terra. Nessuno ha mai parlato di loro, nessuno avrebbe mai parlato di loro. Devo dire la verità, quando è arrivata la notizia del rapimento di Suor Maria Teresa e di Suor Caterina, detta Rinuccia, anche in redazione abbiamo preso un po' così, eravamo alla riunione mattina e detto, vabbè, dobbiamo occuparcene. Poi però, ma l'irruzione di quei musulmani armati nell'ambulatorio ci obbliga invece a occuparci di loro e a interrogarci ancora sul massacro dimenticato dei cristiani nel mondo, dall'India alle Filippine, dall'Indonesia all'Iraq, dalla Nigeria al Sudan, dall'Algeria alla Cina. In Somalia un'altra missionaria, Suor Leonella, è stata uccisa 2 anni fa. E questo il Regioconto. Il giornale, il Regioconto di Mario Giordano, più un commento, come dire, siamo colpevoli di non occuparci, dobbiamo occuparci di più di questa drammatica questione della condizione dei cristiani in alcuni paesi del mondo. Ora, il giornale poi si occupa, mi pare che sia un servizio solo del giornale, la censura di Michele. Chi è Michele Santoro? Ecco le carte, e se noi andiamo nelle pagine interne troviamo un ampio servizio. Santoro censura, ecco le carte della verità. Chi censura? Censura, secondo il giornale, Gioe Violanti, la voce di Santoro a RDS, che imita Santoro, e qui c'è una lettera, una vera e propria lettera fatta dal legale, che poi è lo scoop, diciamo, del giornale, raccomandata a mano, confermata, insomma, oggetto Michele Santoro. Il dottor Michele Santoro mi ha incaricato di contestarvi, scrive l'avvocato di Santoro a RDS, l'abusivo utilizzo della sua identità che voi state ponendo in essere in modo tale da danneggiare la preparazione e la realizzazione del lavoro del mio cliente. Specificamente, il vostro comportamento si sta realizzando illecitamente attraverso l'utilizzazione per i vostri scopi del suo nome e del nome della sua trasmissione con le modalità e negli ambienti propri dei quali egli effettivamente svolge la sua attività preparatoria di anno zero. Qui c'è anche un'intervista a Gioia Violanti, dice, insomma, per Santoro la sua imitazione crea un qualche confusione. Sì, ho visto anch'io la lettera del suo avvocato, quindi secondo me non è così, è com'è, ognuno fa il proprio lavoro, il mio obiettivo è far ridere i radioascoltatori. Grazie anche alla reazione sorpresa del politico di turno, la parte più divertente dello sketch, insomma, dice Gioe Violanti, non mi sembra. E c'è anche una presa di posizione Travaglio, che è sorpreso, dice il giornale, dalla reazione di Michele Santoro, gli voglio vedere davvero la lettera, e due pagine molto dure, il paravento della satira e i mesterianti dell'insulto, comici, giornalisti, scrittori offendono e poi rivendicano il diritto di critica, ma se Berlusconi fa una battuta tutti si scandalizzano. Questo è Filippo Facci che scrive un commento sulla vicenda. Adesso dunque volevo intanto tornare alla vicenda di Trento, perché il riformista dice la Lega si è fermata a Trento, cioè vede la cosa da quest'altro punto di vista. Scricchiolina il centrodestra, scrive il Riformista. Dopo il gelo degli alleati sulla proposta di Fini, una bicamerale per il federalismo, ieri nella maggioranza è scoppiato il caso Trento. Alle elezioni provinciali il candidato del PDL e Lega, Sergio Divina, raccoglie il 36,5% contro il 56,9% del candidato di centrosinistra e UDC, Lorenzo Dell'Ai. Insomma, qui la vede da un altro punto di vista il Riformista, e poi c'è un'intervista a Dell'Ai che dice ma quale Obama del Nord, mi votano perché sono popolare. Chi ha paura del sorteggio È Francesco Giavazzi, economista, liberista, che scrive un editoriale sul Corriere della Sera a proposito dell'università e della nomina dei docenti. E gli studenti di Trieste, scrive Giavazzi, hanno avuto un'idea brillante. Tutto è nato sul loro blog, dove uno si è chiesto perché in tante università rettori e professori partecipino alle manifestazioni contro i tagli del governo. Può essere che utilizzino il nostro movimento non per il bene dell'università, ma per proteggere qualche loro interesse, magari per impedire che si modifichi il sistema con cui vengono reclutati i professori. E così sono andati sui siti dove vengono riportate le pubblicazioni scientifiche dei loro docenti e quanto ciascuno è citato in altri lavori. Quindi, come dire, mettere in piazza la formazione e la produttività dei docenti. Dice ancora Giavazzi: vorrei avanzare una modesta proposta. Fra poco, più di un mese, in tutte le università si voterà secondo le nuove modalità, cioè per costituire un pool di candidati tra i quali poi avverrà il sorteggio. Affinché si possa votare con sufficiente informazione, le diverse discipline dovrebbero prendere esempio dagli studenti triestini e pubblicare un elenco dei professori eleggibili e della loro produttività scientifica. Quindi si propone come grande trasparenza. Il Corriere della Sera apre, come vi dicevo, come tutti i giorni, ormai quasi tutti i quotidiani, quasi tutti, piloti in rivolta e caos, sciopero immediato di 24 ore, il governo li precetta e Berlusconi chiamò Colaninno, scrive Francesco Verderami, l'allarme era scattato domenica. Berlusconi si era affrettato a chiamare i soci CAI per evitare che nella cordata si aprissero nuove crepe, tali da compromettere l'operazione AZ. E ancora ieri mattina il Premier ha voluto sincerarsi che tutto filasse per il verso giusto. Il Corriere della Sera poi dedica un'intera pagina alla cronaca di quella drammatica giornata che deve essere stata ieri per i viaggiatori. E bloccati a centinaia a Fiumicino e Linate, Ostia sotto assedio, interviene la polizia. Francesco Di Frischia che scrive: vergognatevi, è meglio se fallite, siete privilegiati e vi lamentate pure. Sono durissimi i commenti di migliaia di passeggeri rimasti ieri a terra nell'aeroporto di Fiumicino Linate e Malpensa, tra bagagli smarriti e poche informazioni. Al termine della giornata saranno un centinaio i voli annullati solo nella capitale, oltre ai 100 partiti con ritardi fino alle 6 ore. Analoga scena a Milano, una cinquantina le cancellazioni, allo sciopero bianco dei piloti che hanno imposto il blocco a tutti gli aerei non in linea al 100% con le regole ENAC, si è sommata alla rivolta selvaggia degli assistenti di volo. Nel principale scalo romano, verso le 6 del pomeriggio, intervengono addirittura i poliziotti, formano una specie di cordone per difendere il personale di terra e calmare un gruppo di viaggiatori furibondi quando alcune oste si allontanano da un check-in assediato. C'è chi le rincorre, ma che scioperate pure, urla un imprenditore veneto, equivoco subito chiarito, è solo il cambio turno. Questo la cronaca, diciamo, di una intera pagina sul Corriere della Sera. E poi ancora Tremonti, piano per l'economia entro Natale. Ecco, invece un altro elemento, oltretutto è lo stesso foglio, si occupa di Tremonti, investimenti pubblici anticrisi, scrive il foglio, un Tremonti rooseveltiano, la recessione è arrivata, l'Istat annuncia che l'indice della produzione industriale corretto nei primi giorni lavorativi è calato a settembre al 5-7%, su base annua, mentre rispetto ad agosto la contrazione è stata del 2-1%. Abbiamo visto già i dati e in questo clima, dice, ieri un Tremonti in versione rooseveltiana ha preannunciato una riunione straordinaria del CIPE per rilanciare gli investimenti pubblici, altre cose che saranno comunicate al Presidente del Consiglio. Quindi un ministro dell'economia si dice rooseveltiano. Questo il Corriere della Sera e il foglio. Ora, tornando alla morte di Miriam Makeba, La Liberazione gli dedica la prima pagina, Liberazione è il giornale di Rifondazione Comunista, ma sul quotidiano Piero Sansonetti, direttore di Liberazione, polemizza e anche aspramente con Giovanni Sartori, che ha scritto ieri un editoriale che noi abbiamo citato peraltro sul Corriere della Sera a proposito della crisi della scuola. Il titolo è emblematico: Scuola e società, il manifesto reazionario del professor Sartori. E scrive Piero Sansonetti: il professor Giovanni Sartori ieri ha pubblicato un editoriale sul Corriere della Sera nel quale sostiene con passione una tesi sommariamente potremmo riassumere così: la scuola deve tornare a prima del 68, deve essere funzionale all'impresa, deve essere fortemente selettiva e anche i rapporti educativi in ogni angolo della società devono tornare a un modello fermo e autoritario, facendo tabula rasa di tutta la scienza pedagogica e psicologica che è stata la rovina di tutti noi perché ha distrutto il principio di autorità. Non crediate che questo riassunto che vi ho offerto sia troppo fazioso o esageri i punti di vista di Sartori. Per convincervi trascriverò alcuni brevi passi dell'articolo. Questo scrive Piero Sansonetti in polemica aspra con il professor Giovanni Sartori, politologo, editorialista del Corriere della Sera, che ieri appunto ha espresso le sue opinioni sul Corsera a proposito della crisi della scuola. Il Va di Taranto, arriva la legge, o riduce le missioni o chiude. Anche un altro quotidiano di orientamento di sinistra, Il Manifesto, si occupa di razzismo. Patente di razzismo. Luca Fazio, che scrive: siccome non tutti possono espatriare all'Eliseo come Carla Bruni per sentirsi fieri di non essere italiani, speriamo almeno che qualcuno si vergogni di vivere in un paese che si accalora per il colorito di Obama e per le battute razziste di Berlusconi e poi lascia passare sotto silenzio un disegno di legge sulla sicurezza che sembra pensato apposta per far rimpiangere la legge Bossi-Fini. Questo scrive Il Manifesto, il titolo è L'Africa per noi ed è una grande foto di Miriam Makeba. Infine il Messaggero: all'Italia caos, scatta la precettazione, viaggi nel disagio a Fiumicino, arrabbiati, confusi e stressati i passeggeri arrivati all'aeroporto di Fiumicino sono rimasti prigionieri della protesta dei dipendenti all'Italia, voli cancellati e bagagli rimasti sugli aerei sbagliati, mentre sul monitor dell'aeroporto andavano in fumo viaggi, lavoro e vacanze. E ancora, uscire dal mondo antico, troppi danni per il paese, per il trasporto, per l'Alitalia, dice in un'intervista al Messaggero Michele Tiraboschi. Serve un nuovo sistema di relazioni industriali in cui emerga la parte responsabile del sindacato e siano isolate le frange corporative. Questo sul Messaggero, e con questa segnalazione io ho concluso il mio tempo, quindi vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani.